sì. Che andiamo, andiamo, che? Ma è bello, carino. Francusso, andiamo, andiamo, che? Che? Già mi vuoi bene? Che? È bella. È vero, radio. È bella. Sardanella. Vabbè, Franco Binario. Ciao Claudio, Claudiano. Oh, scusate un attimo, dai, non c'è nessuno, sono un po' citofoni, nessuno entra, boh. Un attimo di bianco. Puro, appena entrato già in bianco. Io dai, ti giro brucio, ero fuori nel giardino, ho sentito il fischio, figurati tu. Boh, andiamo, beh, andiamo. Sta arrivando bene, sì, là. Alla grande. Andava, là. Ehi, fra, stiamo avviando la cena, là. Io stavo un po' ritirando un po' di roba a stessa e accendo, tanto è attaccata alla finestra e non c'è nessuno. Dopo un po' ho sentito chiamare a te, allora a te e rispondo. Io non ho fatto ciò poco fa, sono tutto il giorno pennicciando, a ruga, a pennello in mano, anche sto pennicciando tutto il cavello dietro, i muri che c'ho dietro, che erano ancora da finire, stavo abbassa, a domani. Vabbè, piazzate le plafoniere? Sì, sì, piazzate. A voi la luce? Quelle le fanno luce? Alla grande, ne ho messo una dove c'è il coso per arrostire, lì, con la parete lì, l'altra è sotto la veranda e l'altra l'ho messa dall'altra parte dove stende Anna. E quindi, illuminata a giorno? Oggi e ieri, tutta anche la strada illumina tutto. Nel cancello, però quelli con calma, adesso non ne ho voglia. Devo passare corrugato, fare le tracce. Però poi che invece quelli piccolini, come si chiamano? Quelli a LED, però sono. Si ricaricano durante il giorno, come si dice, quel pannellino solare, no? A parte non pensi che siamo sui 5 euro l'uno, 5 o 6 euro l'uno. Ma, c'è anche il sensore di presenza, quando tu arrivi al cancello si accende automaticamente. Ah, interessante, vedi, quello è interessante. Mi evita di fare tutte le tracce, passare corrugato, cavi, controcavi, interruttori. E dove li ha presi? Qua li ha presi, mi sembra un tipo che li vende, un tipo un ambulante mi, per le strade. E le ha pagate qua cifra lì. Oh, le ha piazzati. Addirittura serve anche come deterrente, perché qua passa un cane, per esempio, un gatto, subito lui si accende, come sente la presenza della persona, o di un animale, il movimento, là, sensore di presenza. Lui si accende e sembra che ci sia sempre movimento in casa, capito? Buono, ottimo per la truppa, va bene. No, perché io li ho visti via le Porto Torres, lì dove ho preso le sdraie e roba per il mare, li ho visti lì, però sono piccolini, da inserire dentro il muro, quelli lì sono. No, questi sono proprio da esterno, hanno già la, come si dice, l'involucro in plastica e il pannello solare sopra, quindi sono già fatti apposta per esterno. Sono grandi, cosa ti posso dire, meno di un palmo, dai, qua. Sono a forma di spicchio, di triangolo, tu lo attacchi al muro dove vuoi e lo proietti in base a dove ti serve, dai. E poi come ci passi vicino lui si accende, quindi ne puoi mettere tanti, in un viale per esempio ne metti uno ogni tanto, mentre tu passi si illumina automaticamente, però ripeto sono automatici, si accendono solo se passa gente, tu invece li vorresti accendere anche per conto tuo. Sì, beh, io devo essere autonomo, ma veramente si passa gente, no? È tutto illuminato, però c'è qualche palettina in più dove c'è il cancello, va bene, ce l'hai visto, no? Dove praticamente sei entrato con la macchina, quei due, il muretto che c'è lì li voglio mettere per illuminarmi il tratto, capito? Avanti Breck. Ciao Mirko di Alghero, hai già visto che sei di Alghero. KK, arrivi benissimo, forse Franco non ti sente, però lo senti a Mirko? È come l'altro giorno, sento che parla, muove un po' il lago, però non lo capisco. Franco, Santiago 7 ti arriva. Non ho capito. No, Mirko sto dicendo. Franco, quanto ti arriva, Mirko? 6-7 ti arrivano, modulazione perfetta. E tu non lo senti. Perché tu stai andando con più watt, però la ricezione è scarsa la tua, Franco. Sì, io sto uscendo con 250 forse. per quello che si sente, però la ricezione è sempre quella. No, qua a Mirko c'è sempre Santiago tra l'8 e il 9, va bene. A lei mi ascolti, sì? Benissimo, benissimo. Ascolto la perfezione, problemi non ce n'è. Tu qua sei tra l'8 e il 9, come sempre. Capito, fra? Dove hai parcheggiato praticamente la macchina, no? Quando sei entrato dentro? Il momento che c'è recinzione, quello proprio l'atto dove avevi la macchina. Quindi voglio mettere delle cose incassate nel muro, no? Con la carotatrice le faccio il foro giusto, le metto dentro e poi accendo per illuminarmi tutto il giardino la notte, no? Sì, sì, intanto saluto Mirko, un abbraccio da parte mia. Sì, però infatti devi farti un impianto, allora ci vuole un impianto finché tu possa accenderlo a comodità. Questi, ripeto, sono faretti automatici, lo metti nel cancello, cioè arrivi e c'hai la luce per aprirti il cancello, capito? Ti lascia la luce finché sei tu lì in presenza. È una comodità, se uno non c'ha impianto, almeno c'è il tempo per aprire il cancello, per entrare dentro. Tutto lì, però a te serve una cosa diversa. No, oh, vabbè, con quel sistema che ho fatto io, per le due plafoniere, lato destro e lato sinistro, e il centrale poi sotto la veranda è tutto illuminato, anche il cancello si illumina, si vede, nell'aria quando rientra tardi, poi c'è il passaggio, hai visto, sono già, ci è venuto qua, è tutto illuminato lì, non c'è problema, quindi no, quello non mi serve. No, quando cercano qualcosa da incassare nel muro, anche così come hai detto tu, capito? Sì, comunque esistono, esistono anche per cioè alimentarli a 220, esistono tranquillamente. Cioè sono imbarazzo della scelta, quadrati, rotondi, triangolari, come vuoi, da esterno, da incasso. E io adesso mi faccio un giro e vedo un po' cosa trovo, va riscendo giù a prendere dalla SIF e vediamo un po'. Avanti Mirko, sì, così mi stava dicendo Franco, vabbè. No, io quel sistema lì no, non mi interessa perché la luce già ce n'è, ci sono anche i due fari nella strada adesso, capito? Prima di arrivare al cancello, quindi già ne ho luce. Sto cercando qualcosa da incassare nel muro per essere una cosa insomma, più bellina, illuminare tutto il prato, va. Sì, dal 30 ha ripreso lei, io ho ripreso il 17 e lei il 30. Ehi, poi già sentiamo, adesso al fresco, dovremmo un'Ande Caraibi. Ma che tu non l'hai visto in funzione il focarello, visto che c'è la mia sorella sabato, non mio fratello, ma ce l'ha portato. Pesce dal nero, quello latte di allevamento, e nell'altro piccolo ho fatto carne e pesce, ma l'hai avuto una giuscia. Ah, grande allora, caspita. Allora, io quindi l'ultimo che ho fatto, non è che non ricordo l'ultima riuscita che abbiamo fatto, adesso in campagna i miei non è che sono già grandi, non hanno più voglia di fare ciò fra me, quindi ne facciamo uno ogni tanto, ma a volte a pranzo più che altro. No, ci organizziamo a cena, beh, già non c'è venuto, abbiamo già la pizza, c'è una cosa veloce, adesso ci organizziamo bene. Così vedi gli ultimi ritocchi che ho fatto, l'ultima cosa invece te l'ho detto, mi sono finito di cominciare tutto l'interno del Calvario, adesso ormai ho le due pareti esterne e poi penso di aver fatto, va, è finito. E poi faccio il muro interno, tutta la recinzione interna, dello stesso colore. Che colore? È un beige chiaro, perché bianco si sporca troppo in fretta. Ho capito, guarda, adesso ti mando, vediamo un po' un faretto se ti arriva, vedi un po' se ti va bene così. Ehi, Amanda, no, non ti arriva, l'ho posizionato il telefono, non ti arriva. Mi è arrivato, aspetta la vedere. Mirko, riprendi? Sì, fra, una cosa del genere. Ciao Mirko, no, io già annaffiato. Ciao Mirko, buona serata con tutto. Ehi, una cosa del genere, fra. Ma sta andando via Mirko, saluto allora. Ci sono anche tondi, che devi fare il foro con la carotatrice direttamente, non devi fare neanche scassi particolari, costano anche meno quei tondi. Sì, una cosa del genere, esatto, una cosa del genere, così c'ho anche la posizione in cui cacciarlo, capito? Poi sono quelli che puntano la luce verso il basso, per esempio, in modo che non ti diano fastidio quando passi con la macchina. Non ti abbagliano, capito? Non ti danno fastidio. Sì, ma una cosa del genere niente, consumano pochissimo, sono pochissimi watt. Sì, io adesso ormai vado a prendere niente, intanto domani mattina devo andare al bricone e devo prendere altre cose che mi servono e guardo se ci sono, perché lì sono abbastanza forniti con i faretti. Sì, li ho visti da Bricomen. Io sto cercando quelli grandi invece, che sono da mettere su come plafoniera per Alghero, quelli piatti proprio che sembrano cartoline, sono sempre da LED. Però per piantare ci vuole un telaietto, mi hanno detto, non puoi piantare così, ci vuole un telaietto in alluminio dove poi loro ci rincassi, quelli che sono 1,20 mi sembra per 30 di larghezza, e fanno un bel di luce, con due di quelle l'Alghero illumina al giorno. Io ce l'ho dei faretti a LED, ma sono fenomenali, solo che sono troppo centrali, capito, la luce la fanno troppo centrale, mentre invece quelle che ho messo a neon, quelle plafoniere rettangolari, quelle sono la fine del mondo perché allargano molto la luce, capito? No, quelle le usano nelle officine, fanno un sacco di luce. Poi vai, ci sono quelle luce calda, luce fredda, adesso non so che tipo di luce hai messo. Sono vari tipi di tubi, dai, che puoi cambiarli in base alla tua esigenza. Invece quelli che ho io sono proprio sempre a LED, ma ci sono, hanno centinaia di LED, tutti uno attaccato all'altro, e la plafoniera è enorme, è proprio 1,20 m di lunghezza, 30 cm di larghezza, proprio un bel pannello, Sì. No, va bene, quelle orientativamente vanno molto bene. Adesso vedo un po', se non trovo niente a Predagnetta, vediamo un po'. No, li ho visti, come dici tu, l'hai fornito, Bricomen c'ha tutto. Li ho visti, ogni volta che vado sono andato a prendere il multistrato perché ho fatto anche le pescerine sopra gli sportelloni, capito, per non battere molto l'acqua, li ho finite proprio stamattina, devo dare una passata all'impregnata e basta, ma il multistrato non ci vuole niente, col multistrato marino, con le pescerine, insomma, è uscita una cosa anche molto carina. E li ho visti questi faretti, li ho visti, ci sono rotondi, tutte le misure ci sono. Sì, hai fatto dei ripari per... No, ho compensato marino, quello, caspita, lo puoi mettere anche a bagno, addirittura, così mi ha detto, neanche si gonfia. No, è di accosta, ma ho preso due pannelli da 1,20 m per 50, che mi è costato un po' quei soldi, però lo dovevo fare, perché ho visto l'ultima volta che ha piovuto, mi bagnava gli sportelloni, certo, se no non durano niente, sono nuovi. Allora gli ho fatto queste pecerine in modo che non batta molto l'acqua, è riservato anche dal sole, capito, e va bene. E li ho visti questi faretti, li ho visti perché il reparto falegnameria è proprio lì vicino, e li ho visti. Sì, forse ho sentito qualcuno voleva entrare, ci sono anche quelle pensiline che in policarbonato, però non durano tanto, e dopo un po' si rovina il policarbonato, si fa in polvere, capito? Quelle pensiline che vendono a volte anche da Bricomen, le paga una fesseria, però ripeto, non durano tanto. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, se no lo rilanci tu. Non so, avanti chi vuole entrare. Lupo Grigio, sei tu? Ma sei in movimento, ciao Lupo Grigio. Perché poco fa il segnale stava aumentando, adesso si è ritornato basso, qui mi arrivi con un segnale di 1, una radio di 2. Però poc'anzi un po' hai oscillato, o hai mosso l'antenna, non so le tue condizioni. Sì, un po' grigio, blu. Nico, mettiti un'antenna sul tetto, porca miseria, boh. Io non lo sento, non arriva qua. Ma è tutto schiacciato, ma arriva basso qua, tu figurati, io ce l'avrò linea d'aria a 700 metri, però io sono in basso, forse con l'antenna sul tetto lo sentirei bene, meglio, però lui è in basso, io sono in basso, lo sento a malapena, e io QRM oggi ne ho proprio zero, non ne ho niente. Ma non arriva qua, no. Ok, ciao Lupo Grigio. No, ha già chiuso, e poi si è mosso, è arrivato a 2 di segnale e poi è risceso, quindi per quello che infatti gli ho chiesto se fosse in movimento, invece forse si è spostato lui. Luca, ancora cucinando in bianco sta. Luca, quest'ora sta sempre cucinando. Oh, quindi sai, c'è roba già pronta, oggi finiamo quello che è avanzato, se no alla fine sarà più duro. E poi domani si farà la spesa di nuovo, dai. No, Clara, mi sono rientrato, sono andato a lavarmi la pedisvella. Ah, la pedisvella si stavi lavando, allora già va bene, dai. Bene, mi ascolti, Come al solito. come al solito, cla. Come vent'anni fa, trent'anni fa, E non ho fatto nulla ancora, non c'ho tempo di niente, sto mettendo il cavolo altro, l'antenna è sempre chi l'ha abbandonata, la radio vabbè già lo sai, è sempre la stessa, quindi non è che cambia molto, però devo tirarla su, devo fare alcuni lavori, ma la prossima settimana ne la tolgo direttamente perché lì devo sollevare un muro, e lì dove c'è l'antenna fra devo fare, faccio la veranda per mettere la macchina. E il legno? Ah, sono tutti là su con i due stecchini. sì, metto la rompicratta a muro e poi da lì faccio partire gli altri pilastri e chiudo tutto il legno, ho già preso il materiale, ce l'ho a Sassari, però fermo in un cantiere. Di mia sorella, da quello di Alghero che è muratore. Sì, già va bene. Chi è che l'altro mi stai dicendo che hai messo un'altra antenna? Che antenna c'hai? Dicevi molto silenziosa. Ehi, c'ho la Gimbal, la Smart Tech della Gimbal, 780 in onda, 8,50 metri alta. Che cazzo. Rende meglio della Mantova o no? Sì, siamo a ricezione e trasmissione, è una cosa allucinante, ma sento ottavi fra, è alta 2 metri e quasi 2 metri e mezzo più della Mantova, come stilo centrale, poi c'ha l'altro stilo attaccato, non so se l'hai mai vista la Gepol, come ha fatto, come se ti mando la foto, ma è una sagumba, la Mantova è molto più rumorosa, i segnali sono molto più bassi, se la mangia, tutto in alluminio, è 8,50 metri. Sì, conosco quella bibanda, dai, quella per i 2 metri e per i 70 centimetri, più o meno la Gepol è quella, dai, che c'è un radiale più lungo dell'altro, così è. Sì, ha uno da 8,50 metri e uno attaccato con le barre in acciaio inossidabile, con il balum 1-1, e poi tutto un sistema particolare di 2,50 metri. Adesso stai usando la Mantova però? No, sto usando questa. Ah, no, puoi vedere la differenza, per riprendere il segnale. Questa c'ho, la Mantova ho staccato il cavo, perché come tanto non la voglio mettere. Però le differenze io le ho già fatte con Roberto, mi chiedi a Roberto se ti dico balle. La 9,30 con la Mantova e 9,35 con la Gepol. Certo. L'altro giorno l'unico che mi sentiva eri tu ad Alghero, Ed ero con quella, con la Mantova non ti sentivo, cioè ti sentivo molto molto basso. Ho staccato e attaccato quella e arrivavi Santiago 5, positivo sì. Caspita. Poi io gli altri li sento sempre con segnali bassissimi, vabbè dipende anche dallo Smith, io non è uno Smith professionale. Però di radio vi ascoltavo bene sia te che Roberto. Roberto c'ha il casino che della sua zona deve essere un casino di segnale lì, di disturbi, di ritorni, radiofrequenze, cose varie. Lo so, però la Mantova la conosciamo, molto rumorosa, tira molto QRM, questa è molto ma molto silenziosa rispetto alla Mantova, e come resa è superiore perché è una 7 ottavi. Certo, c'è un guadagno superiore, sia in trasmissione che in ricezione automaticamente, giusto? Già solo con la lunghezza guadagni qualcosa. E poi un 25-30 continuo, capito? La Mantova è 26-28, proprio questa è 25-30, è fenomenale, io anche nelle bande varchi in 21-3, 21-4 riesco a trasmettere bene, non siamo a quattro in 10 metri poi non ne parliamo, in 10 metri sembra un'antenna direttiva, è favolosa. Non la conosco come antenna. Luca! Sempre bugie Luca. Sì, da sempre Brimparendi, sempre Brimparendi, da Salva. Chi è che sta chiamando? Avanti? No, sempre male, Lupo Grigio, sempre male. Non ho capito, Lupo Grigio, non ti ho capito. No, c'è Claudio che è da Sassari. Ok, dai, prendi qualcosa questa antenna, mettila sul tetto. Ciao, Lupo Grigio. Avanti, Claudio. Vabbè, forse lui è convinto che abiti ancora in via Milano, ma io non ci abito più a Carbonazzi. Capito, io sono, già lo sai dove sono. sono in su. KK qua non arriva, non lo sento per niente, è proprio zero sotto zero. Ma sicuramente lui ti sente, perché lui in genere sente tutti. Ma è che proprio lui non è chiuso lì, boom. Peggio di me. Beh, sicuramente già mi ascolta, ma il fatto che lui qua non arrivi non è che sono coperto, insomma, eccetera. Come visuale ce l'ho abbastanza buona e la zona è abbastanza alta, però non arriva qua. Non arriva qui a casa, che c'ho vicino un tiro di tiralattico, diciamo. Eppure arriva bassissimo, adesso proprio addirittura ha peggiorato, adesso neanche muoveva l'acqua, il segnale era zero, la radio appena percettibile, molte parole infatti non riusciva a capirle. Ma qua ci vuole mettere un'antenna sul tetto, lui ha problemi, non vuole avere problemi col condominio, ma mette un'antenna seria, ma una cosa fatta bene, lavoro fatto bene, che problemi hai? Ma secondo me se si mette un'antenna come ce l'ho io, una canna da pesca, anche se io non ce l'ho sul tetto, bene o male riesco a arrivare, non dico dappertutto, ma insomma mi faccio sentire un po', e invece lui proprio non esce da lì. Anche quando ero a Carbonati, nonostante la zona era buona e vedevo Sassari, qua Sassari non lo vedo, però già mi difendo lo stesso, ma dico, avevo più ricezione lì sicuramente, è sempre arrivato basso, molto basso. No, ripeto, solo qualche volta che andava interrato, allora mi arrivava a 7, qualche volta anche 9 mi è arrivato, ma dal terrato però, quando si arriva su col portatile, con una mano sulla ringhiera, come massa. Sì, se va sul terrato lo sento bene sicuramente, perché già io sono alto, quindi lo prendo in pieno, ma così non arriva qua. No, non so se tu stai dove abiti lui, è proprio chiuso il suo palazzo, là. Altra, io sono con te e a me con Anna al telefono. No, non lo sapevo. Anche in dubbio che siamo, no? Io e tu e mia moglie con tua moglie. Succede. Beh, lo sai, si cercano, quindi su WhatsApp, messaggendi. Sì, poi la mattina gli manda quella roba là, dai, quella roba che non si può dire. Ehi, guai se non gliela manda. A volte ancora non me l'ha mandata, ma si esitendi, già mai capito. Perché lì si legge tutte queste cose, capito? No, è che a me me la mandano quasi tutti i giorni, però per esempio c'è tipo la domenica, si alza tardi, deve essere questo spacciatore, e quindi di conseguenza arriva tardi anche da parte sua, perché poi Anna la prende da me. Ah, ecco, fate un giro, lo mandano a te, te lo mandi a Anna e Anna lo manda a Anna. Io lo metto in un gruppo, dai, e poi da lì, ripeto, sempre un rischio, però infatti un dato invece che c'è qualcuno. Lo so, però dai, già va bene. Luca Ariello, noto Pedifrella. Lui era Cattarella. Sì, Cattarella, Pedifrella, Tapparella, tutto c'è a lui. No, ho più sentito l'altra Pedifrella, Antonio Bombolino, pari due. È strano che era un periodo molto assiduo, si ha rotto le scatole anche lui. Io non lo sai, soprattutto i K li accendo e ti dico che non sento mai nessuno. Adesso ero nel salone che stavo rientrando, l'ho appena finito di innaffiare, ho sentito Luca fischiare e quindi sono entrato, altrimenti non c'è mai nessuno, oramai è tutto in disarmo. Io sono sceso in campagna perché c'era l'olio, come si chiama? La Carrefour, l'olio extravergine di Dante in offerta a 3,50 euro al litro, e mi ha preso due casse e le ho portate in campagna da mia madre, lui me le ho prese io, e quindi ho fatto un po' di commissioni, poi salendo ho fatto un po' di spesa, ho detto va, stavo ritirando la roba e te ci accendo, e anche io accendo come giusto per far scaldare un po' la strumentazione, e in genere come dici tu non c'è mai nessuno, ho sentito poi il fischio e poi sei entrato anche tu, tutto qua. Proprio zero sotto zero, infatti no, vabbè, io non è che accendo tutti i giorni come ero prima, tutti i santi giorni nel radio, sto settimana e settimana senza entrarci, però magari capita che c'è un amico, quindi vedi come sei tu, anche Giulio un po' assente, Luca, vabbè, tra poco, Antonio lo sento un po' lo stesso, Roberto, sono quelle due o tre persone insomma che posso fare due chiacchiere. Roberto già entra ogni tanto, c'era Natalino l'altro giorno, Giulio. Però è così, è logico, se uno entra e non c'è mai nessuno, alla fine poi inizia a rallentare le ricerche, no? Alla fine ti stanchi, entri meno. Però dai, arriverà l'inverno, le giornate più fredde, più buie, dove magari scalda un po' l'ambiente il baracchino. Beh, l'inverno sicuramente, perché insomma faccio meno cose fuori, sono più dentro casa, magari qualche chiacchiera in più me la faccio, però non ho più quella passione di prima, non è più come prima. Poi l'altro giorno eravamo quelli sciocchi, c'era io Gianfranco, c'ero io Giulio e Natalino, ha cominciato la portante, Gianni c'era, ha iniziato la portante, ho smesso tutto, non mi fa più di inserirmi in certe cose, basta, mi ha giubilato troppi di colpi in radio, adesso mi faccio i cazzi miei, fra chi vuole vivere vivere e chi non vuole vivere si impicchi. Ma grazie a Dio abbiamo altre cose da fare, giriamo spalle e facciamo altro. Sì, una sera c'ero anch'io, la portante arriva forte anche qua, qui è 9.30 più o meno, siamo lì, e quindi è un segnalone, disturba Giulio, disturba tantissima gente. Beh, disturba, non sento niente, io sento solo Roberto e basta, perché Roberto c'è un segnalone, 9.35 arriva, ce l'ho di fronte, capito? L'unico che vedo è Roberto e Antonella Lisci e basta, gli altri non li vedo. Capito? Anche Gianni c'è un bel segnale quando attacca, però lo disturba anche a lui, è una rottura di balle, perché insomma, è ora di finire con questa troncata, oramai siamo grandi vaccinati, se qualcuno c'ha qualcosa, basta dirlo, cosa stai a un clic abbordante a rompere le palle alla gente. Avanti i break, buonasera. Sì, PSL, buonasera Franco, buonasera anche a Claudio Sparviero, qui è Chioda Ruggito, operatore Claudio, dal QPH di Muros, vi saluto entrambi, riprendi Sparviero. Oi, Claudietto, buonasera, salutami a casa a tutti, a babbo, mamma e compagni, però tanto non ti sento, anch'io sono un po' assente, adesso ho acceso, sentito Franco, sono rimasto 10 minuti a fare scaldare la radio, come va, tutto bene? Sì, qua PSL, non c'è male, mi stavo ascoltando il vostro QSO e mi ho proiettato entrare a salutarvi. Sì, tutto a posto qui da noi, spero anche per voi tutto bene, capito? Sì, sono un po' assente, diciamo, in radio, perché sono sempre con la bicicletta in giro, capito? E adesso all'inverno riprendo e mi deve arrivare in radio, siccome così, camminando con il mio amico Vinca Camion, mi ha fatto un contatto 25 facendo di ex su altre frequenze, su queste frequenze che sono un po' assenti in questo periodo. Sì, comunque sì, te lo saluto a Capri 2, e niente, dai, faccio riprendere a Franco, riprendi Franco. Sì, Claudio, un abbraccio anche da parte mia, mi hai sentito dopo tanto, perché è un po' che non ti ascoltavo, saluto anche tuo padre, importante è star bene, dai, avanti ancora Claudio. Ma ho scelto un attimo di bianco, sì, Claudio, ma è tanto già ti sento nei canali alti, insomma, che fai i collegamenti, benvengano, io non c'ho più quella passione, non c'ho più niente. Giusto così ogni tanto accendo questi miei vecchi baracco per fare due chiacchiere, se è possibile, se non è possibile pazienza, no, non mi interessa più. Abbiamo già dato, Claudio, abbiamo già, c'è un segnalone allucinante, veramente, vedi quanto è Roberto Quadrato, abituato al tuo segnale a Sassari, che era sempre intorno al 9.10, quasi 9 più 30 pieno, 9 più 30 sul K, sul 430, veramente un segnalone, vabbè che ti vedo, ti vedo, a te ti vedo, Sassari no, ma ai paesi ti vedo. Sì, PSL, K, classi, anche tu, che tu mi arrivi a pompa, 9.35, quasi su 9.40 con questa radio, come si chiama, il 757, classi usando, sì, con 80 watt l'ho collegato, microfono usando M1, pilota della Yaesu, sì, hai capito, ma questa la uso poco, me la uso più che altro per fare ascolto, la radio, ne ho approfittato di entrare su 10 adesso per salutarvi, perché... solito uso sempre un po' il noise con la radio vintage, mi piace usare su queste frequenze perché siamo su frequenze vintage, e adesso sto aspettando che faccia Nicola come deve portare il contatto, capito, il contatto 25P, così adesso ne ho 4 di quel contatto, e capito, là, e infatti non vedo l'ora, mi perché qui li metto le MD più 4, me lo faccio tutto sistemare da capo, e perché mi piace molto quella radio, capito? E sì, e sto facendo più che altro attività radio, e adesso in questo periodo vabbè sono sempre in bicicletta, perché mi sono comprato anche un'altra bici, un'altra bianca, di quelle nuove, e quindi il paracchino lo sto usando poco, però il periodo di giugno, luglio è molto operativo su quelle frequenze che mi stavi dicendo tu poco fa, e niente, faccio riprendere a Franco, riprendi. Break. Avanti Lu. Oh Antonio sono, buonasera a tutti. Ah Antonio, ciao. Sì, volevo chiedere a Muros, a Chiodo, se esci con qualcuno in particolare, qualche gruppo, no? Quando vai in bicicletta. Sì, sì, io ho i miei amici che vanno per loro in bici, sì, che sono con la squadra di Florinas, che capito, c'è una squadra, si chiama Ruoco Libere Florinas, e loro sono tesserati anche con quella squadra lì, sì, io ho molti amici, sì, siamo un gruppo, riusciamo a fare i giri, e, capito, e adesso ho ripreso, mi fa male d'agosto, perché mi sono cambiato anche la bici, sì, ma adesso è un gruppo, riprendi Franco. Sì, perché infatti volevo chiedere se conoscevi Antonio, Antonio di Florinas. Sì, ma vai, vai, quello che guida tram, dici tu. Kappa, quello è mio cognato. Kappa, e siamo molto amici con Antonio, sì, ho fatto un sacco di giri con lui, ci siamo visti anche da poco, che l'ho portato fino a casa sua in bicicletta perché l'ho incrociato con un altro ciclista, e sì, con Antonio siamo molto molto amici, ci sono anche amici su Facebook, capito, è veramente in gamba, ed è anche molto bravo in bicicletta, sì, e ogni tanto organizziamo, sì, quando ovviamente loro hanno tempo, perché lui lavora molto, capito, e quando hanno il tempo, di solito il sabato e la domenica organizziamo, e l'anno scorso abbiamo fatto un sacco di giri, sì, con Antonio, capito, sì, sono molto amico suo anche, sì, intanto ne approfitto anche per salutare a Pombolo, l'altro Antonio che è appena entrato. Ciao Antonio, come stai? Ti ho sentito, riprendi. Capo, buonasera, buonasera, bene bene. Era un po' che non ti sentivo a te, tutto a posto? Capo, QSL Antonio, tutto ok, sì, ero poco assente su queste frequenze, mi stavo dicendo anche a Claudio poco fa, perché sono sempre in giro di capite tu. Di solito frequenze alte, facevo il DX, quindi ero un po' stufato e lo stavo accendendo solo per fare qualche ascolto, il baracchino, e niente, adesso ho ripreso, mi deve arrivare anche un'altra radio, quindi capito, in inverno sono più che altro operativo rispetto a prima, capito ancora, e niente, dai, faccio riprendere a Sparviero, riprendi Claudio. Kappa, ciao Antonio Bombolo, buonasera, ben ascoltato, non proprio quello che ho fatto nominato perché sono un po' di giorni che non ti sento. Va bene, dai, io faccio un altro passaggino, ascolto i finali, poi stacco perché devo fare alcune cosette e poi andare a cena. Avanti Antonio, riprendi. Kappa, kappa, dai. Non c'ero, non, soprattutto domenica, ero prefissato di entrare, però domenica non stavo bene, quindi e via. Spero niente, niente di grave, dai. KK, no, domenica, boh, non mi ricordo se ho acceso, c'era qualcuno, boh, forse non ho sentito neanche nessuno. Va bene, Franco, per te il cambio, io ascolto i finali e poi chiudo, Un abbraccio grande a tutti, Claudio, a te che ti ascolto poco, saluta mio babbo, mamma, a Ottavio, a tutti, fate sentire, ok? Il cambio per Franco, ascolto il finale e poi chiudo, avanti Franco. Ah, intanto saluto Antonio, ben entrato, come dice Claudio, poc'anzi stavamo parlando proprio di te. Un abbraccio Claudio, allora, Sparviero, un salutone alla famiglia, una strada di mano e un abbraccio, alle prossimine, avanti Claudio per i saluti, Claudio Chiodo. Sì, su QSL, grazie a Franco per il mic, sì, anche io darti approfitto per salutarti, Cla, mi ha fatto piacere che ti ho risentito, da adesso ci entriamo più spesso con Capri 2, mi ha detto saluti che giù in cucina, con mamma, e niente, dai, alle prossimine, Cla, ti auguro buona serata, buon tutto, ci sentiamo alle prossime, riprendi il pombolo. Capa, saluto me, da parte mia, ce la risentiamo alle prossimine, capa. Ti volevo dire, come arrivo lì a Muros? Cappa, 9-5, ecco, 9-5, quante caramelle stai curando, riprendi. Cappa, io già va bene, dai. Sì, a bomboletta, Radio 5 è molto forte, bella modulazione, ti faccio anche i complimenti, io sto usando il 757 della Yaesu e sono tanto al bar di contento, queste sono le mie condizioni di lavoro, l'antenna è sempre la stessa, la Sirio Tornado, riprendi Franco. E volevo chiedere a Antonio come ti arriva invece Claudio da Muros a te? Ma Santiago 8 Radio 5. E quindi arriva più forte di me. No, come, non so se ti ricordi, oh Claudio, io sono sempre con l'antenna sulla facciata, dai, non è sul tetto, però ti ascolto bene ugualmente perché non ho neanche QRM, ti ascolto bene alla grande. Sì, QSL, Franco, sì, tu qui a Muros, sì, Santiago 8, Radio 5, sì, ti ascolto molto bene, cioè per le condizioni che ti sei messo, ti ascolto molto bene, Franco, riprendi, Antonio. Kappa, e forse un po' più forte io. Kappa, comunque qua già sei forte, la verità, già va bene. L'importante è farti sentire, Cla. Sì, QSL, Franco, infatti quello è capito, perché io di solito ho molte radio e sto sempre al cambia, capito, a volte da come cambio la radio le condizioni di lavoro cambiano, capito, perché a volte mi sentono più alto, leggermente mi dicono a volte che sono molto forte, che sono troppo basso, dipende da tutto il microfono che uso, Franco, capito, perché l'antenna è a posto, proprio che uno è fresco, sempre di tappi, che ho visto che stanno andando molto bene, sperando sempre che questo inverno lì, così il vento non me la fili più di nuovo, perché l'anno scorso l'ho dovuta cambiare, l'ho dovuta, per fortuna ne avevo un'altra di scorta di queste antenne, perché sono molto fragile, io sono più per la mantova di antenna, perché queste come tira una folata di vento, te la tira giù, te la spiega la punta, in pratica c'è costato parecchio a salire sul tetto, perché abito in una casa vecchia, io abito in centro storico, di fronte alla piazza, e il tetto non è molto agibile, capito, dove è messa l'antenna, e quindi abbiamo fatto i miracoli con Capri 2 a rimetterla a posto, riprendi Antonio? Anto. Kappa, stavo mandando un messaggio a una persona, mi sono dimenticato, io, vabbè, Kappa, hola, aumentato lì a Muros adesso? Kappa, no, negativo, c'è sempre 9-5 ti ascolto, non so con quanta potenza stai uscendo adesso, però il segnale è sempre su 9-5, riprendi. Kappa, è sempre così, più o meno, va. Sì, QSL, perché tu usano anche una radio, questo è molto preciso, il compito di AISU, perché se tu usano quello switcher è molto, molto fatto bene, perché questa radio me l'avevo dovuta fatta rimettere a posto, capito, perché si era guasta, capito, e di fatto non è la mia questa, capito, e a me mi deve arrivare su un contatto 25 feet, e io ho già 13 di contatto, me ne deve arrivare un altro che me l'ha regalato questo mio amico, e che mi mancano due valvole, però ma io ho già due ricambi, e quindi fatto già la sua mettere a posto, e sto aspettando che viene, perché questo che me la devo portare qui del cambio, capito, molto un apparato che lavoro, e adesso, guarda, penso in questa settimana, mi viene io dove di te che qui penso, e almeno entro più spesso anche quando c'è quella radio, perché il valvolare a me sono sempre piaciuti, capito, riprendi Franco? Io stesso ho un vecchio valvolare, lo uso poco, lo accendo, lo faccio scaldare e basta. Non so se conosci il Gemtronic, sempre valvolare. Negativo, fra quello proprio non lo conosco, conosco il Fenco Nasa 46T che è molto bello, il Fish 23 canali che vuole sempre al Fenco Nasa, qui tutta la serie di Consta, tutta la Fayette, perché il Consta è il mio preferito, il Baracchino, quindi valvolare 23 canali, questo che mi hai nominato non lo conosco, poi guardo internet a vedere com'è fatta questa radio che mi stai dicendo tu, perché io ne ho molti valvolari, perché la linea di radioamatore della Sommer, tanto ricevitore e trasmettitore separato, l'FL50, l'FR50B, capito, sotto da radioamatore, sì, che è valvolare, molto bella il 327, però mi manca una valvola per poterla usare, devo comprare la valvola, capito, perché non ce l'abbiamo, capito, quindi non posso posso usarla in 27, molto bella anche quella, sì, è, hanno una ricezione spettacolare, molto favolosa, e il valvolare su tutti, per me su tutti un'altra cosa, e pensare che quando ero piccolo non mi piacevano tanto le radiovalvole, come me le ha fatte provare babbo ha cambiato subito idea, soprattutto il contact, perché mi piacciono solo il contact a me, così ho valvolare, i radiovalvole, capito? Ovviamente ne ho tanti di baracchini, però quelli a valvole per me sono i migliori, li prendi Antonio? A me a valvole mi piacciono i lineari. Anche qui ne ho due, che sono li sto usando, perché sto usando un Alfa Lima transistor, capito, quindi quelli c'è il ione, uno che si è attaccato nella postazione dove modula mio padre, nell'altra camera, nella postazione che è della radio vintage, se lo usa con le sue radio, è un coso, mi pare un M, due valvole, che tira intorno a 200 watt, credo, capito, prima io usavo quello, l'ho dato a lui, capito, poi c'ho un DV 2001 della Voltage che tira, che ha una modifica alla valvola pilota, si può entrare anche con 100 watt in ingresso, quindi credo che tiri quello intorno ai 500 watt, una roba del genere, però consumano, capito, non li uso più di tanto, però c'è il due perché, capito, sono da collezione, riprendi Franco. Caspita, 500 watt sono un bel botto, sei curioso di vedere con quanto aumenti di segnale dalle nei miei confronti. Sì, comunque se ti ricordi è Gemtronic, cos'è? Adesso mi ricordo il nome. Comunque è un 23 canali. Forse, aspetta che accendo la luce, poi ti dico proprio la marca proprio. Guarda a vedere adesso a Muros come sono. Adesso sono col K. Tanto adesso mi sei un po' abbassato a 9, mi sei, la radio però ha aumentato di più, capito? Però il segnale da 9,5 mi sei passato a 9, ecco, riprendi. Già va bene, là, già va bene. E poco qua, la verità, stavo spingendo un po'. E il K, ma già ti ascolto bene che col K, anche, quindi ovviamente noi abbiamo avuto tre, mi sa, di così, una bella serie K, sono molto, molto belle quelle radio, capito, 4,30, 4,40, quelle proprio sono micidiali e spaccano tutti, anche gli Aesi sono, ma quelli hanno una marcia in più, sempre come dice Claudio, perché li ho provati anche, capito, e sono quelli così, quelle radio, quelle lì, capito, niente, faccio riprendere a Franco, riprendi. Sì, K diciamo in AM riescono a dare qualcosina in più di radio specialmente, riescono molto forti. Allora è Gemtronic GTX 5000, 40 canali, no, 40 canali, non è un 23, è un 40 canali, CB transceiver. Questo tipo lo stava, non dico buttando via, ma quasi, lo stava dando insieme a un aspirapolvere e gliel'ho chiesto e me l'ho portato via, dai, l'ho dato qualcosina. L'ho sistemato, all'inizio la facevo qualche scarica di valvole, allora le ho tutte smontate, ho pulito le sedi, un po' di spray, una lucidata e via, e ha ripreso a funzionare. Sì, si scappa, Franco, è fatto bene a recuperarlo, perché sono quelli così da museo, quelli valvolari, capito? Infatti a me mi piacciono molto, io ho anche un Hellcat americano, 23 canali, che in Italia non sono mai stati importati all'epoca, quelle radio non sono mai state vendute, le vendevano solo in America, capito? E me l'ha fatta avere Claudio, che me l'hanno fatta avere dei suoi amici radioamatori, che l'ha data a parte, dopo me l'ha data a me, capito? Però ronza un po', capito? Ronza, trascorso il microfono perché vuole cambiare un condensatore, che non ce l'abbiamo, cambiarlo perché sono di quelli primi, ma se ordino dall'America penso di poterlo trovare. Poi ci avevo il courier che l'abbiamo dato via perché voleva sistemato, quello cambio di altre radio e neanche perché non mi piaceva molto. Capito? Sì, sono belle radio, le radio a valvole, proprio qui hanno una ricezione fantastica e si scaldano anche in inverno perché sono una stufa, capito, quando le lascio accese, mi danno molto caldo perché io ho la stanza un po' qua che in inverno fa molto umidità, capito, quindi è molto, molto comoda la radio a valvole, capito, Franco, riprendi Antonio. Cappa, no, io, a me piacciono le applicature a valvole molto, cappa. questo cosa credi che sia questo? Questo che sto utilizzando io adesso? Hai cambiato radio, che non ho capito. Sono passato a questa, cosa credi che sia del radio? Allora, Santiago è sempre 8, l'Alfa 8, scusa, 8 e mezzo, 9, e la radio 5, sempre, non so che radio stai usando, ma cos'è, valvolare? No, negativo. Lei, guarda, lei ha detto poco fa che cosa potrei usare, una marcia in più. Ah, ho capito, sì, quello lì è fantastico, ce l'avevamo, un coso, il 430 ultimamente, che era ritardo, poi l'ha dato via, perché era un po' da sistemare, perché l'avevamo sistemato rispetto a come ce l'avevano dato, però era tutto da mettere a posto, allora l'abbiamo dato via e... capito, e ci siamo lasciati solo gli Aesu, quelli lì, che mi sono comprato un altro Aesu grande, mi sono stato in panda, credo che sia, quello lì che si possono attaccare le antenne, infatti prendo per subito il modello, però anche quello spinge, però questo è molto più comodo perché prende più poco posto, anche se sono belle radio, io vado a uso a posto, perché uso sempre il Pony, il Sommer, il Hit, il Contact, quella radio lì, quando entro su queste frequenze, perché mi piace modulare con radio vintage su queste frequenze, però se li usi tipo a fare il DX, quelle cose che faccio io con altre frequenze, ti diverti un mondo, perché tutti usano quelle radio lì e ci vogliono quelle per arrivare a bene. E niente, va, faccio riprendere a Franco, riprendi Franco. Sì, comunque Antonio sta facendo benissimo adesso, poi c'hai dei picchi di modulazione allucinanti con questo, con quest'ultimo apparato che stai usando. Adesso vi saluto perché qui mi chiamano, sicuramente è pronto per caricare. Un abbraccio a Claudio, ben sentito dopo tanto, saluto al guardia familiare, un abbraccio anche a Antonio, ok? Avanti Antonio, riprendi, ascolto i saluti anche di Claudio e poi chiudo. Ciao, ci sentiamo, salutoni, ci sentiamo alle prossimine. Avanti Claudio. Sì, QSL, e anche io ne approfitto per salutare a Franco. Ciao Franco, è stato un piacere ascoltarti dopo tanto tempo. Dai, ti auguro buona carica e buona serata Franco, dai, mi ha fatto piacere. Ci sentiamo alle prossimine, sono già entro più spesso e stasera ne ho approfittato così per entrare, perché questa radio che sto usando non la posso neanche usare su queste frequenze, perché la uso più che altro per fare ascolto, questa, capito? E anche perché non è la mia e niente, da proprio ho voluto approfittare per salutarvi, da un super saluto, buona carica quando la fai, Franco, da anche io ne approfitto per salutarvi, perché io devo andare a fare carico batteria adesso che mi hanno appena chiamato, e niente, saluto a te, Antonio, e a tutti gli eventuali amici in ascolto, io passo il tuo riflesso e tappa, buona serata a tutti, riprendi Antonio. Grazie per il controllo. Avanti, Mari. Buonasera, ciao Franco, buon sì. 9:10 qui ottava, ciao anche a Claudio, Santiago, un bella radio Super 5 qui ottava. Ok, avanti tu. Gappa, ok. Lo senti a Marino? Sì, capo, certo che lo sento, sì, ci siamo sovramodulati a vicenda, sì che lo sento, sì, Santiago 8 Radio 5, mi arriva qua pure, sì, capito. E niente, da, sì, lo super saluto, però io adesso devo chiudere, infatti lo stavo dicendo poco fa, perché devo andare a fare carico batteria, anche da, un saluto cordiale a entrambi, dai, alle prossime, dai, io passo il QRT, ciao a tutti e buona serata a tutti. Ok, ciao Claudio, avrei sentito, saluto il cuore familiare, ecco, vai, avanti tu. Capo, saluto a Claudio, ce la risentiamo, alle prossime, ciao. Ave Maria. Scusate, ciao Marino, rientro per salutare Marino, ok? Ciao Marino. Ciao Franco, ciao frate, sentite, è un ascolto, non potevo entrare per altre cose, ok? Sono in casa, buona cena, al prossimo, se non ci va, avanti a tu. Tutto a posto, Anto, dai. Tutto a posto? Tutto ok, niente in ordine, Anto. Andare Mario, io so che si intende che Mario è i panini, dici? Cazzo, mia gana di Drapaglia. Ma la Marcellina l'ha ordinata? Marcellina c'è a raddo da... come si chiama? Chido Gastromania. Gastromania dove è? Più su dove c'è Zara, non mi sbaglio. In piazza Azzuni. La nuova gestione, diciamo, la nuova gestione. Dove stava verificando comunque, perché io la mattina, la sera, ti devo il materiale che mi lascia. scala con le chiavi, ma se è stata così, boh. Veramente hanno un bel di lavoro oggi. Va bene, meglio così, dai. Aspettiamo 10 minuti in più, insomma, dai, non fa nulla. Non fa nulla, vabbè, tu ancora sei ritratto anche il pomeriggio a tabacco oppure solo mattina sei ancora? No, ma che pomeriggio adesso, stiamo lavorando mattina e sera, ma non vale un cliente assai, beh? C'è un po' di calma, va bene, dai, adesso da fine mese comincio a lavorare, vai tranquillo, che adesso la gente sta entrando, io mi si accorgo la materiale, sto raccogliendo, dunque, stanno tutti entrando, tu, vai tranquillo. Capa, scorsa settimana ho lavorato per Franco Giuliano, Arduino, lo conosci? Arduino, cioè, non c'è presente tanto. Mi piace Vittavecchia. Sì. Allora dove ho lavorato? Ho lavorato per lui, portavo il bombo del suo. Vabbè, interessante che... Interessante che ti dia la materia prima, dopo, uno all'altro. Problema che ho trovato qualche cliente che era mio. E ci viene a suonare, no? Vabbè. Vabbè, succede anche. Succede, non si deve fare, piano piano, già sei cliente, se tu bene lo tratti e già, se tu lo bene fai sorriso, già torna a te, non devo farti. Adesso vediamo. Ehi, niente guasa, te rompeva solo le scatole, boh. Sì, più di una c'è di quelle persone, tu già lo sai, c'è più di uno, noia. La signora sta bene, sì. Capa, sta bene, giù adesso mi fra un po' scendo e via, tanto fra un po' arrivano i panini. Già sta bene la signora. Bacio. Ti saluta Marino. Ok, ha detto che ti saluta. Tutto è cambiato, mille grazie a tu, mille grazie. Bene, Meda. Lui adesso mi sta sistemando un po' di roba, un po' di ascolto. Non ho fatto un tempo a salutare Claudio Soviero. Ma sentiamo, là, per quello non c'è problema, non c'è tu. Capa. E io sì, Giuseppe già ne ha, tuo nipote già ne ha cliente. Attento, Rosmarino! Ehi, biondo, tutto ok. Già piano già stava brecchiando anche lui, va. Già stava brecchiando. Avanti, buonasera. Luca! Aspettate un attimo. Luca Riello, cos'è? Sta gettando la pasta alla finestra, scommetto, no? Cazzo, stesso segnale avete? Luca è forte, io sono piccolino, sono considerato, io sono stato a lui, non so se a casa sua oppure a casa della compagna, No, è la torce, cioè se andava in Pisa, 9.20 uno, 9.20 all'altro, non è poco, no? Io sono stato a lui, alla torce, dunque è più vicino a lui, dunque risulta più forte io. Lui con la boomerang. Ma con la boomerang fa miracoli, intende dappertutto. Io c'ho la stella, io ancora c'è lui, io parlo 25-30 anni fa, diciamo, dai, qualcosa in più. Non duravo con Alghero, eppure collegamenti fuori, ne ho fatto a centinaia, mi troppo lì anche Giulio. Va bene, adesso non c'è. Giulio te lo può garantire. Con 41 c'è lui, ma già ho fatto a centinaia di collegamenti fuori in continente e forse anche qualcuno all'estero. È buttata in un terrazzino al secondo piano dove mi trovo io. Se tu sai dove c'è l'attività di Giuseppe, io mi trovo il portone di giù e l'antenna c'è al secondo piano, buttata in terrazzino, avanti un po'. Lì non è mai bigliata, sempre in chiavi lampada. No, che poi una volta che sono sposato, poi l'ho tolto e dopo abitavo al monte, l'avevo piazzata al monte insieme al palo alto, ma il palo alto c'era un palo, c'erano tre antenne piazzate, figurati, e c'era stato un ascolto anche, come al solito. comunque l'ultima antenna per me ha funzionato benissimo. Quella grande, ragazzi, la bomba era grande, l'ho avuta anche io per un periodo qua, poi ho messo questa che è meglio. Cazzo, ci ha portato davvero. Quella che c'è va benissimo, va super bene, cazzo, qua. Qua siamo in il palo, siamo in il palo, sbaglio un po' di gente, sbagli. Non lo so, ho lasciato così, già va bene. Comunque l'avevo lasciata così lo stesso, va benissimo. Ottimo segnale qui da casa e va benissimo, non l'avevo mai toccata. No, non è che la tocca più. Ah, sta lì. Finché duriamo qua, sta lì. Non tocco più, no. Andate. Vediamo se Luca ha terminato di buttare a passo la finestra, Luca. Non ha terminato, avanti anche tu. Scappa. No, non mi tocco più antenna, no. Se funziona, non mi dà stazionaria perché la devo toccare. Se va bene, non toccarla, va la così e basta. E se comincia a toccarla, a mantenere, non esci più. Dai, sono arrivati i panini, Marì, ci sentiamo, dai. Ok, tu, lascia una piccola chiacchierata, sentiamo, dai, sono in casa. Anch'io me la faccio come ti, saluto in tutto il suo turno e culo del tipo lui, ciao.